Ovolallo. Ovolallo. Ovolallo. No, ripeta. Ovolallo. Ovolallo. Ovolallo. Ovolallo. Ovolallo. Ovolallo. Va bene? Quasi, signora. Ovolallo. Olio. Ovolallo. Ovolallo. Cavallo. A cavallo. A cavallo. A cavallo. Ovolallo. La. Ovolallo. Quasi, signora. Ovolallo. Ovolallo. Ovolallo. Ovolallo. No, pipetta. Ovolallo. Ovolallo. Ovolallo. The 105 Zoo. Va bene?